Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ci occuperemo chiaramente del Consiglio dei Ministri previsto per le 21.30, dove si dovrebbe, uso condizionale, affrontare sia il tema del DL Semplificazioni, che è slittato di giorno in giorno, ma anche il cosiddetto PNR, Piano Nazionale delle Riforme, per riformare il fisco anche sulle imposte indirette, più controlli contro l'evasione ma nessun condono, ma insomma ci sono varie bozze che sono circolate, nuovi fondi per ammortizzatori ed enti locali, e poi c'è la parte delle semplificazioni, gli ostacoli soprattutto sull'autorizzazione e la pianificazione dei lavori pubblici, e poi investimenti oltre il 3% del PIL. Si punterebbe su trasporti e telecomunicazioni. Ci sono tante, vediamo di capire poi intanto le linee guida, ci mancherebbe, ma anche, e qui sarà fondamentale il DL Semplificazioni, capire poi come queste linee guida trovino una operatività il più rapida possibile. Siamo d'accordo con le dichiarazioni che sono filtrate dal governo, non c'è tempo da perdere. Per carità, però poi sappiamo che servono i decreti attuativi e che il diavolo si nasconde nei dettagli, quindi bisognerà vedere poi come veramente si semplifica la parte procedurale sulle opere pubbliche. Scusatemi, mentre segnalo che si è ancora lo stallo, a mio avviso in maniera incredibile, sul MES, e cioè l'Italia continua a non far capire, non far sapere che cosa vuole fare di questi soldi. Noi abbiamo diritto più o meno a 38 miliardi di euro per spese sanitarie dirette o indirette, questa è l'unica condizionalità, ho provato a spiegarlo in tutti i modi, e cioè che le spese devono essere fatte e vanno verificate. Certo che nessuno ti fa spendere i soldi solo sulla fiducia, e andrà verificato che questi soldi del MES tu li spenda per spese sanitarie dirette, quindi strutture ospedaliere, medici, infermieri, personale sanitario, e anche indirette, penso per esempio alle spese che verranno sostenute nella scuola per la riapertura scolastica, ma non solo, anche tutto quello che riguarda le spese da sostenere per il distanziamento nel trasporto pubblico locale rientrano nelle spese sanitarie indirette, potremmo fare l'elenco di questo, e quindi chiaramente anche le spese per l'edilizia scolastica rientrerebbero nelle spese indirette. Però noi, pur avendo versato già 14 miliardi al MES, quello solito, quello del 2012, siamo titubanti, o meglio alcuni partiti sono titubanti, insomma, non vogliono il MES. Ora io capisco più o meno la posizione di Fratelli d'Italia e della Lega, la capisco più o meno perché secondo me anche lì c'è un'opposizione ideologica, non la capisco in chi è al governo e vede anche nelle emergenze, mi riferisco ai 5 Stelle, non la capisco una parte dei 5 Stelle se non anche qui solo per un approccio ideologico. C'è un altro punto sul MES, attenzione, perché abbiamo chiesto noi con una trattativa forte che venisse creato un nuovo MES parallelo, cioè il Covid, e quindi levate tutte le condizionalità dell'altro MES. Ora risulta un po' difficile far capire perché non lo vogliamo utilizzare, e perché se continuiamo a dire che il Recovery Fund deve avere 2/3 a fondo perduto è 1/3 al massimo di prestiti, poi però ci permettiamo di non utilizzare 37-38 miliardi che, e chiudo, ma lo ricorderò ogni volta, andamento delle obbligazioni dei titoli di Stato di questi giorni permetterebbe un risparmio all'Italia di 500-600 milioni all'anno per 10 anni, che sono 5-6 miliardi rispetto alla stessa obbligazione che tu dovessi andare a prendere sul mercato, quindi a un BTP a 10 anni. Non ci vuole anche qui un genio, basta guardare i rendimenti dei BTP italiani in questo momento e vedere qual è il rendimento bassissimo chiesto, quindi gli interessi bassissimi che dovremmo pagare sul MES. Poi, voglio dire, Qui però siamo anche di fronte al terrapiattismo, perché tu puoi dimostrare in tutti i modi o cercare di spiegare, io non ho ancora capito dove siano le condizionalità che spaventano, per così dire, i partiti che ho menzionato, non ho capito perché non le ho viste. Poi se qualcuno domani mi scrive, guardi che lei si sbaglia per 1, 2, 3, 4 motivi, le uniche condizionalità sono quelle relative alle spese di carattere sanitario, diretto o indiretto. All'obiezione perché gli altri paesi non lo usano, a parte che Cipro ha annunciato che lo userà, faccio notare, andate a vedere l'andamento dei rendimenti dei, dei bonus, quindi i BTP spagnoli a 10 anni, ma anche quelli portoghesi, per non dire quelli francesi e quelli greci, i nostri sono quelli con un rendimento più alto, quindi noi abbiamo la convenienza più alta a utilizzarlo. Comunque, di questo resta sullo sfondo il MES, al di là del Consiglio dei Ministri sul decreto semplificazioni e piano nazionale di, delle riforme, di cui ci occuperemo subito. Poi per quello che riguarda invece l'appuntamento con Alessandro Pradrotti, con Dietro la Notizia, ci occuperemo della guerra, non dei vaccini in senso stretto, ma dei fronti farmacologici, farmaceutici soprattutto, e quindi la ricerca del vaccino da un lato, la ricerca di trattamenti, la guerra sui trattamenti che non sono chiaramente un vaccino ma in alcuni casi hanno dimostrato e hanno avuto riscontri positivi, e la guerra sugli strumenti di diagnosi, quindi tamponi o test serologici. Perché? Perché sono tre guerre parallele, chiaramente una è più lunga, quella sul vaccino purtroppo, che si combattono a colpi anche di soldi e di accordi, e ne parleremo con appunto Alessandro Platerotti. Ultimo tema, oggi è partito ufficialmente dopo mesi di discussioni, autorizzazioni, colpi stoccate da una parte e dall'altra, l'offerta pubblica di scambio con cui Intesa San Paolo vuole inglobare UbiBanca. Dico, a mia memoria, è la prima offerta pubblica di scambio, cioè una volta si sarebbe detto un'OPA ostile, un'offerta non concordata nel mondo bancario, quindi che non sia frutto o di un fallimento di una banca o comunque di un'operazione concordata, nel senso che di solito si preferivano sempre operazioni, diciamo, che avevano anche il placet, parlo degli anni scorsi, anche il placet della Banca d'Italia, insomma, che in questo caso UBI ha respinto, diciamo, l'offerta, ma l'offerta è partita, chiaramente. Quando è stata lanciata valorizzava UBI a 4 miliardi 860 milioni, cosa vuol dire? Vuol dire che l'offerta paga un premio del 27% sul valore di borsa del venerdì precedente, e quindi quasi il 28% di premio. E che cosa prevede? Un concambio di 17 azioni di Intesa di nuova emissione ogni 10 titoli di UBI portati in adesione, perché si rivolge chiaramente agli azionisti di UBI. Cercheremo di ricordare anche com'è la compagine azionaria dentro UbiBanca, perché c'è un ruolo importante anche di alcune fondazioni. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Visto che parlavo dell'OPS scattata oggi, andiamo sulla borsa. Più 1,60% Milano, più 1,60% Parigi, più 1,60% Francoforte, più 1,80% Londra. Il Dow Jones, che era chiuso appunto venerdì scorso per il giorno precedente, il 4 luglio, oggi guadagna l'1,44% tra i titoli forti sia in tutti e due gli attori, UbiBanca più 4,10, Intesa più 3,24, il titolo più forte però è Banco BPM più 4,20 e anche Unicredit più 4%. Tra i non bancari segnalo Tenaris più 3,60 e poi invece FinecoBank più 3,50, Telecom più 3,10, Banca Mediolanum più 2,90, Pirelli più 2,60 come Leonardo, Buzzi più 2,50, Azimut più 2,30, di negativa c'è solo Era, meno 2,30%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Partiamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale. È interessante, tra virgolette, quello che sta capitando in Australia, perché dopo che la capitale dello stato del Victoria, Melbourne, ha avuto centinaia di casi nelle ultime 2 settimane, praticamente il 95% di tutte le nuove infezioni in Australia, per la prima volta da 100 anni, cioè dalla spagnola, dall'epidemia spagnola, sono stati chiusi i confini tra lo stato del Victoria e il Nuovo Galles del Sud, New South Wales, e ci sono 6 milioni di persone, 6 milioni e 600 mila persone isolate, quindi in lockdown nella zona dello stato del Victoria. Negli Stati Uniti comunque l'Australia si mantiene con numeri assolutamente bassi, perché da inizio epidemia sono solo 8.500 le persone che hanno contratto il virus e 106 quelle decedute, ma numeri molto diversi, chiaramente la popolazione è molto diversa, non me lo scrivete ogni volta, negli Stati Uniti, che hanno registrato nelle ultime 24 ore quasi 40.000 nuovi casi, 39.379, e 234 nuovi decessi, per un totale di 130.000 morti. E Trump ha attaccato di nuovo la Cina. La Cina ha causato un danno enorme agli Stati Uniti e al resto del mondo, accusando ancora una volta Pechino sulla diffusione della pandemia. Per quello che riguarda invece l'Europa, c'è stato un boom a maggio del commercio al dettaglio, ma solo grazie, diciamo, all'allentamento delle misure restrittive imposte, ha fatto un più 18% su aprile, te credo, però su base annua, e questo è il dato, cioè maggio su maggio di un anno prima, siamo ancora a un meno 5%. Dicevo del MES, oggi è intervenuto anche il segretario generale del MES, che si chiama Nicola Giammarioli, intervistato da Repubblica, ha detto: guardate che le linee di credito non hanno nulla a che vedere con i prestiti del passato, non c'è nessuna condizionalità ex post, austerity, troika o ristrutturazione del debito. E ha ribadito: l'Italia alle attuali condizioni di mercato si troverebbe a rimborsare una cifra inferiore a quella ricevuta, perché addirittura va in negativo i primi anni, e complessivamente con un risparmio di 500 milioni di euro all'anno. Ma se 500 milioni di euro all'anno non servono a nessuno in questo paese, che ce lo dicano. E però che prendano questi 500 milioni da un'altra parte, vediamo dove, e iniziano a distribuirli. Solo di risparmio, eh. Vabbè, questa mattina il capogruppo del PD alla Camera, Graziano Del Rio, è intervenuto a Radio 24 mattina con Simone Spezzi e Maria Latella, ha detto: bisogna far conto della convenienza, e sul MES mi pare che vi sia. Però noi non possiamo andare in Europa a portare a casa dei risultati grazie all'azione del nostro commissario Gentiloni, di tutta l'azione del governo e di tutta l'azione, diciamo, dei socialdemocratici europei. Portiamo a casa dei risultati in cui l'Europa diventa molto più amica, molto più vicina, con la BCE, con la Banca Europea degli Investimenti, con il fondo SURE per la disoccupazione, con il fondo MES senza condizionalità. E dopo aver fatto questa grande battaglia europeista, dico che un pochino ce ne vergogniamo. Ecco, questa chiarezza secondo me va fatta. Io credo che quando il presidente Conte, il governo, avrà portato a casa anche l'ultimo risultato, cioè quello chiamato Next Generation Fund, fondo per le nuove generazioni, o insomma Recovery Plan, quello che è stato, come è stato definito, quando si porteranno a casa anche questi 750 miliardi, appariranno chiari tutti gli strumenti, e a quel punto l'utilizzo dipenderà solo dal buon senso. Convincono a prestito 36 miliardi a tasso zero piuttosto che pagare 5 miliardi in più di interessi? Questa è la domanda, è semplicissima. Qualsiasi persona in un supermercato a cui lei fa questa domanda le risponderà: conviene non pagare gli interessi. Io confido molto nella ragionevolezza amministrativa, ho fatto per 25 anni da amministratore. Credo che un sindaco, se deve scegliere tra una cosa che conviene alla sua comunità e non conviene, non abbia dubbi, insomma, sinceramente. E restiamo in tema di debito italiano. Nel frattempo oggi è partito il BTP Futura, lo spread oggi è a 165 punti, è debito anche questo, lo dico. Allora, il nuovo titolo di Stato dedicato ai risparmiatori, a 2 ore e mezza dall'inizio del collocamento aveva già raccolto ordini per 1 miliardo di euro. Come ha spiegato il responsabile del Tesoro per il debito pubblico, Davide Iacovoni, con Mauro Meazza e Deborah Rosciani a 2 di denari. Il dato sta andando a nostro avviso bene, abbiamo un flusso abbastanza regolare di ordini che sta arrivando, siamo intorno al miliardo di euro di ordini ricevuti, circa intorno alle 2 ore e mezza di apertura del collocamento, quindi diciamo sicuramente positivo fino ad ora, però va tutto quanto appunto poi messo in rapporto al fatto che questo è un collocamento solo per retail che si sviluppa. Che questa è anche una novità sui 5 giorni e quindi è il primo giorno, c'era molta attesa, quindi ha preso tutto un po' con le molle. E poi per quello che riguarda le cedole, ha chiarito Iacovoni, la seconda e la terza cedola sono minime, potrebbero essere riviste casomai esclusivamente al rialzo. La caratteristica di questo titolo è in questo meccanismo di cedole crescenti, le cedole rappresentano la remunerazione che viene data al titolo, questo è un titolo che come tutti gli altri titoli di Stato italiani prevede una cedola semestrale, il calcolo della cedola semestrale viene fatto in base a un tasso, appunto tasso cedolare, tasso di remunerazione. Questo tasso è costante per i primi 4 anni e sarà pari all'1,15%, per i secondi 3 anni invece la cedola sale, questo tasso cedolare sale e arriva all'1,30%, per gli ultimi 3 anni, quindi gli ultimi 3 anni fino alla scadenza finale, si arriva all'1,45%. Ricordiamo sempre che però la seconda e la terza terza cedola, cioè quella dell'1,30 e l'1,45, sono minime, per cui a fine collocamento, in funzione dell'andamento di mercato di questi giorni, potrebbero essere riviste esclusivamente al rialzo. Dunque, andiamo adesso sulla tua strada Liguri. C'è chi mi scrive, allora, sul MES per carità, io ho solo chiesto che qualcuno mi spieghi quali sono le condizionalità. È vero che è un credito privilegiato, ma voglio dire, ragazzi, a me interessano i rendimenti quando chiedo un prestito anche. Nessuno, possibile che non freghi nulla a nessuno dei rendimenti bassissimi e negativi all'inizio e comunque quello che ci fanno risparmiare? Poi ripeto, noi abbiamo già messo 14 miliardi come paese, dentro il MES quell'altro, quello del 2012. Vabbè, era un modo per avere anche un prestito di 38 miliardi. L'unica cosa che non accetto, perché io aspetto ancora documenti che vadano a vedere e mi dimostrino dov'è il cappio che ci stringiamo al collo con questo MES, e soprattutto la differenza rispetto a raccogliere gli stessi soldi sul mercato, perché non è che quando tu chiedi agli investitori i soldi tu non sia oggetto, per esempio, all'andamento dello spread, o ci ricordiamo anche degli attacchi al debito italiano nel 2012-2013, non è che quei soldi non abbiano condizionalità, ma intesi come rendimenti di mercato. Però una cosa veramente non la capisco, a chi mi scrive, ma quale poltrona le hanno promesso per difendere il MES in questo modo? Ovviamente mi hanno promesso la poltrona di Gian Marioli, non lo sa, sarò io il prossimo responsabile del MES qualora l'Italia lo approvasse, come no? Questo la dice lunga anche così sull'onestà intellettuale di chi scrive. Cioè, io non posso avere un'opinione sul MES, devo per forza avere una poltrona per avere un'opinione, va bene. Allora, sulle autostrade, stamattina 10 km di coda anche nell'A26, in A12 km erano diventati 11, abbiamo raccontato in tutti i modi che cosa è successo. Autostrade per l'Italia che dice: io ho messo in atto la legge del 67 e ho fatto i controlli nella prima fase come ritenevo importanti. Il ministero che ha detto: no, devi fare anche, devi verificare bene le onduline. E non ha cambiato le date. Il risultato è stato, diciamo, il cul-de-sac in cui si sono trovati gli automobilisti in questi giorni. Botta e risposta anche tra il governatore Ligure Totti e il ministro dei trasporti De Micheli. Ha detto che, insomma, ci sono stati profondi ritardi nei controlli e nelle manutenzioni in questi anni. De Micheli ha detto: non ho sentito però grandi proclami nei 5 anni precedenti da parte di chi ora si lamenta. E stasera la De Micheli ha annunciato prima del Consiglio dei Ministri una decisione sui controlli della rete autostradale in Liguria. Allora, segnalo che la prima campanella, visto che il tema della scuola c'è stato e ci sta molto a cuore, la prima campanella post-Covid suonerà il 7 settembre in Alto Adige, questo in base alle competenze della provincia autonoma di Bolzano in materia scolastica. Secondo l'andamento epidemiologico è previsto un modello a semaforo verde, quindi in cui le norme sull'assembramento e igiene vengono rispettate chiaramente, ma le mascherine sono solo negli spazi comuni. Giallo, distanziamento di un metro, obbligo di mascherina e ingressi scaglionati. E rosso, invece, nuovo lockdown e didattica a distanza. Il ministro Azzolina ha detto: stiamo lavorando molto, molto bene con il commissario Arcuri e investendo dei soldi per acquistare dei banchi singoli che possono essere arredi moderni, che possono restare. Si tratta di investimenti strutturali per le nostre scuole che permetteranno forme di apprendimento nuove. Guardi, ministro, a me basterebbero anche le forme di apprendimento vecchie, bastano tornare alla didattica a distanza. Poi, se potessero, dico col massimo rispetto, pur avendone chiesto io formalmente le dimissioni per quel poco che vale la mia parola in queste settimane, se potesse anche dirci quanti soldi state investendo per dei banchi singoli, cioè in modo da capire quanti sono 10, 1000, 10.000, 100.000. E poi ha ricordato l'Azzolina un bando di 236 milioni che permetterà a ogni scuola secondaria di primo grado di avere fino a 100.000 euro, per le scuole secondarie di secondo grado fino a 120.000 euro per comprare libri di testo, device e zainetti agli studenti meno abbienti. Questo ci mancherebbe, cosa buona e giusta, figuriamoci. Oh, mentre il Veneto oggi annuncia, grazie a quel, non voglio più commentare quel genio dell'imprenditore, e non solo lui, Zai annuncia trattamento sanitario non solo obbligatorio non solo per le malattie psichiatriche ma anche per epidemie e altre attività. 1000 euro di multa per la violazione dell'isolamento, a me sembra comunque poco, anche 1000 euro. E l'azienda della ULSS ha l'obbligo di denuncia e di comunicazione al sindaco, al prefetto e alla polizia dell'obbligo dei soggetti obbligati all'isolamento fiduciario per eventuali controlli e misure cautelari. Zai ha poi chiesto che si porti a livello penale la violazione dell'isolamento. Io avevo capito che fosse già così, ma mi sembra anche in questo caso, mi sembra il minimo, se c'è qualcuno che se ne sbatte altamente degli altri e diciamo, poi crea quello. A me dispiace che questo sia ricoverato in rianimazione, però voglio dire, mettiamola così, speriamo che tutto finisca bene, esca dalla rianimazione per potergli dire in faccia che è quello che penso di lui, ecco. Allora, le segnalo a proposito di governatore, di Zaia, la classifica del Sole 24 Ore per da noto, realizzata per il Sole 24 Ore del lunedì da noto sondaggi, che si chiama Governance Pool 2020. In sostanza è andata a vedere quali sono i governatori e i sindaci più popolari. Allora, il governatore del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Bari e presidente dell'ANCI Antonio De Caro sono gli amministratori locali più popolari d'Italia. È un consenso quasi plebiscitario, otterrebbero, se si votasse adesso, il 70% delle preferenze. E poi sulla classifica l'indicazione più evidente, appunto, è che i quattro governatori più popolari sono Zaia, poi Fedriga con il 59,8%, la Tesei Umbria 57,5% e la Santelli Calabria 57,5%. Sono tutti e quattro governatori del centrodestra. Al quinto posto Bonaccini con il 51,5%. Giovanni Toti in Liguria sale molto, dal 34 al 48%, mentre chi perde di più sono, da un lato, Michele Emiliano in Puglia, visto che ci sono le elezioni non è una buona notizia per lui, è un sondaggio, è dal 47 al 40%, e Fontana in Lombardia che scende dal 49 al 45%. Tra l'altro all'ultimo posto è Nicola Zingaretti, che sarebbe anche segretario nazionale del PD, al 30% come consenso. Va bene, e con questo chiudiamo le notizie in breve, andiamo su meteo e pubblicità e poi E poi andiamo col primo tema, e quindi DL semplificazioni e piano nazionale delle riforme, PNR. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. minuti. Allora, alle 21.30 Consiglio dei Ministri con il decreto semplificazioni, quello appunto di cui abbiamo parlato moltissime volte, che dovrebbe semplificare le procedure amministrative, la pianificazione e autorizzazione dei lavori pubblici, e quindi non solo gli appalti ma anche il ruolo e la responsabilità degli uffici che devono dare il via libera. E da quello che si è capito si agirà in tutti i campi accelerando le opere pubbliche già finanziate in fase avanzata di progettazione e poi semplificando le procedure iter autorizzativi. Poi è spuntato, tra virgolette, anche il piano nazionale delle riforme. Allora vorrei capire da Gianni Trovati, buonasera Gianni. Buonasera a voi. Allora, viaggiano in coppia, che di solito era una battuta per parlare di altro, ma insomma, viaggiano in coppia DL semplificazione PNR? Viaggiano in coppia, perché il PNR, per essere esaminato da un consiglio di ministri, è capita tardi. Dimmi. Aveva bisogno, prego Gianni. Aveva bisogno di un consiglio dei ministri. Il consiglio dei ministri non arrivava perché il governo non riusciva, la maggioranza non riusciva a trovare un accordo. Sul decreto semplificazioni pare che l'accordo sia alle vite e quindi arriverà anche il piano nazionale delle riforme, su cui siamo già un po' in ritardo, in verità, perché siamo l'unico paese europeo a non averlo presentato e perché soprattutto è la base di quella che poi dovrà essere il recovery plan, cioè il piano con cui in autunno noi ci candidiamo a ottenere i fondi europei. Allora, la parte di semplificazione poi la guarderemo nel dettaglio, la commenteremo con gli esperti, ma abbiamo capito, insomma, come titolo, che riguarderà soprattutto, Gianni, le opere pubbliche, gli investimenti pubblici. Ho visto nella bozza investimenti oltre il 3% del PIL, si punta su trasporti e telecomunicazioni, garantire a tutte le principali aree urbane dell'Italia peninsulare tempi di accesso a Roma non superiori a quelli oggi garantiti dal sistema nella sua tratta di maggior lunghezza, quindi 4 ore e mezza. Io più opere vedo fare, alta velocità, snodi autostradali, edilizia scolastica, edilizia sanitaria, più sono contento, per un motivo anche macroeconomico. Però il PNR invece che cosa... Cioè, è quello che poi servirà per andare in Europa e dire questo è il nostro piano per utilizzare il recovery? E come si inserisce lì il MES? Così torno sul luogo del delitto. Prego Gianni. Sì, è il piano in cui noi diciamo all'Europa vogliamo fare una riforma fiscale che tagli le tasse sul lavoro, ma finanziandola con il riordino delle spese fiscali, eccetera, eccetera. Vogliamo portare appunto gli investimenti sopra il 3% del PIL, vogliamo investire in questi filoni, la digitalizzazione, le infrastrutture tecnologiche, eccetera, eccetera. E poi la sanità e il MES. Sul MES il piano nazionale di riforma è molto caldo, perché anche chi al Ministero dell'Economia lo ha redatto sa perfettamente che basta la parola, no? Come dicevo, un fortunato. No, come dicevo, infatti io ho proposto di chiamarlo Punta MES perché è il nome che è sbagliato. Comunque, esatto, prego. Esatto, basta la parola. E allora il documento si limita a un piano strettamente tecnico, dicendo che non ci sono condizionalità se non quelle legate all'utilizzo dei fondi per una serie di investimenti legati in modo diretto o indiretto alla sanità, da dettagliare in un piano specifico. Poi naturalmente non si avventura nel dire che il MES è conveniente rispetto ai titoli di Stato, eccetera, eccetera. Allora, questo non lo dice, ma lo si sa. Un'ultima domanda, Gianni. Vabbè, basta la parola. Sì, per chi è la mia e la tua età si ricorda che la pubblicità della FAR qui. Ecco, non come parlavamo del MES, io vorrei ricordare che la FAR qui aveva un effetto. Tutto aiuta. Non vorrei che diciamo questo fosse un tuo giudizio velato sul MES, paragonandolo alla pastiglia Falqui. Però, tornando a essere seri, c'è un tema. Noi sappiamo che poi anche sul DL semplificazioni diventerà un decreto e poi va convertito, e soprattutto qui, attenzione, vi saranno, da quello che tu hai capito, quanti e quanto complicati i decreti attuativi? Allora, certo, è un decreto legge che va convertito in legge e ci vuole prima di tutto che la maggioranza non zoppichi, e quindi ci vuole appunto parlare il meno possibile del MES. Dal punto di vista dei decreti attuativi, qui alcuni problemi ci sono, ma sono molto meno rilevanti rispetto per esempio all'ultimo decreto rilancio, perché sono in larghissima parte, quasi tutte, norme ordinamentali che appunto evitano obblighi di gara, riducono obblighi di comunicazione, eccetera, eccetera. E la sfida è l'attuazione, non tanto dei decreti attuativi, ma poi della capacità delle singole amministrazioni di tradurre in realtà queste norme. Sì, no, ma questo mi interessa molto, perché sappiamo che poi le leggi in Italia rallentano la loro applicazione proprio per via dell'attesa dei decreti attuativi, quindi meno ce ne sono e meno articolati sono, più abbiamo così la ragionevole speranza di avere un decreto semplificazioni che parte sia operativo il prima possibile. Gianni, ti attendi che sia l'ultimo consiglio su questo CDM, sul da un lato DL semplificazioni e anche PNR? Sì, però è molto probabile che il decreto semplificazioni venga approvato con la solita formula del salvo intese, perché l'accordo non c'è esattamente su tutto, e questo permette di, come dire, dedicare alcuni giorni ulteriori a trovare la quadra politica su molti dei temi spinosi che rimangono aperti. Il problema è che non potevano rinviarlo ulteriormente, no, perché sono settimane che questo decreto è annunciato senza veder la luce. Allora, grazie anche a Gianni Trovati, grazie all'ascoltatore che mi fa notare che erano confetti quelli della Falqui, non pastiglie, l'effetto però mi sembra che non cambiasse. Andiamo sul traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Cosa cerchi per il tuo business? Le migliori innovazioni, le tecnologie più avanzate e poi connettività, precisione, sicurezza. Perché non pretendere tutto ciò anche dalla tua auto? Con la nuova BMW Serie 3 Touring hai una tecnologia totalmente al servizio del tuo piacere di guidare, per far arrivare il tuo business ancora più lontano. Scopri le nostre soluzioni flessibili su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW. Focus Economia. A 7:49 minuti, allora, ci sono i dati diffusi oggi, sono buoni sui decessi, 8 decessi, sappiamo che la domenica può essere che arrivi in ritardo, però sono solo 8 i decessi, mentre per quello che riguarda le terapie intensive 2 in meno, continuo con i dati clinici, c'è un ricoverato in più, e questa, vediamo che c'è un'altalenanza negli ultimi giorni con numeri molto bassi. Sui ricoveri, nuovi contagiati sono 208 in più, sostanzialmente in linea come quelli di ieri. Molti messaggi sul MES. A mio avviso, cioè, giustamente mi fa notare un ascoltatore che con oltre 2.000 miliardi di debito temiamo il cappio su 34 miliardi di prestito che possiamo prendere. Ma visto che parlavo dei contagi, dei dati di oggi della Protezione Civile, occupiamoci della battaglia non solo farmaceutica che si sta scatenando appunto su trattamenti diagnostici, trattamenti terapeutici e vaccini. Dietro la notizia. Sì, parliamo di una guerra che è una guerra chiaramente di carattere sanitario, ma che ha anche dei grossi risvolti di carattere economico. Mi riferisco alla guerra per non i vaccini, perché insomma un vaccino vero e proprio non c'è purtroppo ancora, lo sappiamo tutti, ma per i farmaci che hanno, avrebbero dimostrato degli effetti positivi contro il coronavirus. Avrete letto probabilmente la notizia che gli Stati Uniti hanno acquistato tutta la produzione di luglio e il 90% di quella di agosto e di settembre del farmaco che si chiama Remdesivir, che per quello che si capisce ha avuto un'efficacia contro il coronavirus. Ce ne parliamo, visto che l'appuntamento è quello di Dietro la Notizia, con Alessandro Praterotti. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi, buonasera Sebastiano. Allora, lo ha dato l'annuncio il Dipartimento della Salute americano. Il Presidente Trump ha concluso un accordo per assicurare che gli americani abbiano accesso al primo farmaco autorizzato contro il Covid. Infatti è un farmaco autorizzato contro il Covid, non è il vaccino. Però la cosa interessante è che agli ospedali degli Stati Uniti andranno 500.000 trattamenti. Ogni trattamento contiene 6 o 7 fiale, costa $3.200. Quindi un valore complessivo di $1.600 milioni, pagabili per chi ha con l'assicurazione. E questo gli Stati Uniti. Ma Alessandro, la guerra, dicevo, una guerra chiaramente nella ricerca medica e farmacologica, ma è anche una guerra economica. È una guerra economica, che è una guerra che si combatte su tre fronti, ed è bene tenerlo presente questo, perché si inserisce anche nel nostro dibattito sul MES, ovvero sul MES sanitario. E vi dico perché. Perché Stati Uniti, Europa e in parte anche l'Italia stanno tutti in parte, perché la nostra industria farmaceutica grande e bella che è scomparsa da anni, stanno facendo la corsa su tre fronti. Il primo fronte è quello dei trattamenti, perché come giustamente dicevi tu, la strada del vaccino è lunga, malgrado Trump sperasse di avere un vaccino prima delle elezioni di novembre, e questo l'ha detto più volte, la FDA, ovvero l'organizzazione, la federazione, l'Agenzia Americana del Farmaco, ha detto che non accetterà nessun vaccino sul Covid che non funzioni per almeno il 50% dei casi trattati. Questo significa aspettare, vista l'attuale livello di sperimentazione, non prima del febbraio del 2021. Quindi si allungano i tempi. Più vicini sono i tempi del secondo fronte, ovvero quello dei trattamenti. Come dicevi tu, il Remdesivir è un farmaco che, attenzione, non ha dato nessuna prova di funzionare, eppure è bastato il fatto che la Calgene, l'impresa che lo produce, dicesse che è in fase avanzata della sperimentazione, per creare un vero e proprio terremoto finanziario. Pensate soltanto che in 3 giorni è fatto immediatamente avanti l'AstraZeneca, che è la più grande impresa farmaceutica inglese, per fare un'offerta da $118 miliardi per comprarsi la Calgene. Quindi, come vediamo, questo è il secondo fronte, ed è un fronte molto finanziario, perché è quello che sta dando sostegno ai mercati finanziari e a Wall Street in particolare. Il terzo fronte è quello dei diagnostici, cioè ovvero come individuare il virus. E su questo ci inseriamo anche una battaglia un po' tutta italiana, perché il 20 aprile scorso il governo ha inserito le aziende biotecnologiche nell'elenco dei settori strategici, quando però i buoi erano già scappati, ovvero i cinesi avevano già fatto shopping di gran parte delle nostre imprese del settore biotecnologico. Vi faccio un esempio: per decisione del TAR, ad esempio, poco tempo fa è stato deciso che un'azienda cinese farà la sperimentazione in Italia per fare i kit diagnostici per il coronavirus, e questo ha escluso ovviamente le aziende italiane. Quindi ci sono contraddizioni di fondo in tutta questa guerra, con in mezzo chi? Un po' il contribuente e un po' tutto il mondo, diciamo così, tutta la comunità internazionale, che sta aspettando un segnale dai governi. Qual è questo segnale? Quello del denaro speso in ricerca. E qui veniamo al dunque, perché l'Europa ha stanziato 2 miliardi per la ricerca dei vaccini, ma quei 2 miliardi venivano legati a che cosa? Al MES, ovvero l'approvazione del famoso strumento europeo che dovrebbe servire per ricostruire i sistemi sanitari. Voi sapete benissimo che il MES è ostaggio del dibattito parlamentare e soprattutto in governo, morale poco o niente, se non addirittura saremo esclusi completamente dall'assegnazione dei fondi, e questo riguarda le nostre università e i nostri centri di ricerca, per ricercare il vaccino. Morale, tum Rome cogitur, il mondo va avanti. Sì, tra l'altro noi su questo avevamo anche promesso un investimento forte in ricerca e sviluppo sui non solo i trattamenti, ma soprattutto la fase diagnostica. C'era tutta la vicenda della Diasorin, che prima si è vista riconoscere un contratto e poi sospendere, Alessandro, no? Beh, questo sicuramente è uno dei casi più emblematici, tra l'altro con un paradosso un po' grottesco. quando è stato deciso al TAR che gli Azzorri non aveva nessun diritto a fare sperimentazione nei centri di ricerca, centri di ricerca universitari italiani, ma la gara doveva essere data ai cinesi, perché poi è stata data ai cinesi, beh, c'è stata, ricordo che fu proprio la regione Lombardia e in particolare l'attuale assessore alla sanità a dare il benvenuto ai cinesi in Lombardia, quando acquisirono due aziende italiane trasformandole in una sola e accorpando ben due centri di ricerca. Questa è anche la morale di come si fa politica industriale, solo legato agli eventi politici italiani. Allora, grazie anche Alessandro Paterotti, che risentiremo lunedì prossimo per un altro approfondimento di Dietro la Notizia. E adesso andiamo sul GR24, poi la borsa, l'OPS d'intesa su UBI e il mondo della pubblica amministrazione con il tema, insomma, dello smart working. Quanto e come durerà? 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, la borsa oggi più 1,5% alla fine Piazza Affari, come Parigi e anche Francoforte, Londra più 2,1, Dow Jones più 1,30%. UBI Banca, e di questo parleremo fra un attimo, più 4,20%, do anche l'altro titolo interessato all'operazione, Intesa San Paolo più 2,60%, poi Banco BPM più 4,20%, Unicredit più 3,70%, Fineco più 3,60%, Tenaris più 3,5% come Telecom Italia, Case New Holland più 2,60% come Leonardo. Fronte opposto a ERA meno 2,30, A2A meno 0,30%, ma diciamo che la notizia finanziaria più importante di oggi, se vogliamo metterla in questo modo, è la partenza dopo mesi di discussioni, autorizzazioni, botte e risposta, stoccate anche, l'offerta pubblica di scambio con cui Intesa San Paolo vuole inglobare la UBI Banca. E tra l'altro è un'operazione in cui c'è anche un accordo con Bipper, perché acquisti all'inizio dovevano essere dalle 4 alle 500 filiali, poi dopo i dubbi dell'authority, dell'antitrust, il numero delle filiali che verrebbero tra virgolette girate a Bipper, filiali UBI, sarebbe 532, e se non fosse sufficiente Intesa sarebbe pronta a cederne altre 17 a soggetti terzi. Allora, la cosa importante è che tipo di offerta è. Allora, quando è stata lanciata, valorizzava UBI dando un premio, come si dice in gergo, del 27,6% sul valore di borsa, e quindi calcolava il valore di UBI sulla base di questa offerta a 4 miliardi 860 milioni. UBI l'aveva bocciata definendola non concordata e non conveniente. Gli azionisti di riferimento, visto che poi l'offerta pubblica di scambio, che a mia memoria è la prima volta che c'è un'offerta, diciamo, ostile banca su banca così, però gli azionisti di UBI, al primo posto c'è il fondo Parvus Asset Management Europe Limited, che ha quasi l'8%, poi c'è la fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che ha il 5,90%, poi Sister International Investors al 5,1%, la fondazione Banca del Monte di Lombardia al 4,95%, HSBC al 4,89%. Si ha tempo per aderire all'offerta fino al 28 luglio. Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Intanto, se vogliamo unire il commento dell'andamento dei titoli oggi con l'offerta e poi capire, insomma, che di solito prima che parta la data vera e propria si hanno i cosiddetti schieramenti, chi è così favorevole a consegnare le azioni e chi no, soprattutto nel nocciolo duro degli azionisti. Paolo. Sì, certo, la prima cosa da notare alla chiusura della seduta di oggi è che con il rialzo odierno, che è stato maggiore per Ubi rispetto a Intesa, il prezzo di borsa adesso quota con un premio di oltre il 5% rispetto al valore implicito nel concambio dell'OPS, vale a dire che il titolo Ubi in borsa vale il 5% in più rispetto a quanto viene valorizzato rispetto all'offerta di Intesa, diciamo. Esattamente, in base all'offerta di Intesa. Quindi questo, secondo alcuni, può segnalare che qualche investitore inizia a scommettere su un possibile ritocco verso l'alto, certo, dell'offerta, una cosa che Intesa ha sempre negato. Oggi, tra l'altro, alcuni analisti si sono esercitati anche con posizioni opposte su questo tema, se infatti Kepler ritiene che potrebbe esserci un ritocco cash accanto alle azioni Intesa, la banca potrebbe offrire fino a 0,3 euro per azione Ubi, invece altri azionisti, quelli di BofA e Merrill Lynch, hanno spiegato che secondo loro un simile ritocco cash sarebbe negativo sia per il mercato e potrebbe distruggere valore anche tra gli azionisti Ubi, perché andrebbe a indebolire il patrimonio della banca post fusione, naturalmente comportando un esborso di cassa che invece al momento non è previsto. Quindi comunque i titoli si sono un po' disallineati, erano sempre rimasti più o meno allineati ai valori di concambio. Con la giornata odierna hanno visto allargarsi una forbice, vedremo, naturalmente manca ancora molti giorni alla chiusura del dell'OPS. Sì, tu facevi notare più giustamente più che anche gli analisti, Equita ha detto un'intesa che è un'offerta, quella di Intesa, che non si può rifiutare. Kepler però ha detto attenzione, ha consigliato agli azionisti di accettare, ma ipotizza un ritocco del 10% aggiungendo una componente cash, fino a 0,3 euro per azione, perché in questo momento c'è uno scambio azionario, cioè ogni 17 azioni di chi va a portare 10 titoli di Ubi riceve in cambio 17 azioni di Intesa di nuova emissione. Dicevo però della parte, insomma, che riguarda, non è un nocciolo duro, ma insomma gli azionisti rilevanti, quelli che elencavo prima, qui le posizioni mi sembrano molto variegate. Se partiti da una posizione iniziale che in parte era abbastanza unitaria, contraria all'offerta, e adesso c'è un po' di movimento. Diciamo che nell'azionariato di Ubi ci sono fondamentalmente tre patti di consultazione che raccolgono gli azionisti storici del territorio. Il più grosso è il cosiddetto patto CAR, che raggruppa circa il 18% del capitale di Ubi. A questo si aggiunge un altro patto di azionisti storici bergamaschi, il patto dei 1000, che ha circa 1,5, quindi insieme vanno al 20%, e poi c'è l'8% circa che è in mano al sindacato azionisti Ubi Banca, che riunisce gli storici azionisti bresciani di Ubi Banca. Allora, diciamo che il CAR e il patto dei 1000 si sono subito schierati contro l'offerta, giudicando inaccettabile. Il sindacato bresciano invece non si è mai espresso formalmente ancora, e ancora sta prendendo tempo, potrebbe esprimersi se riesce a trovare una posizione unitaria verso la fine di questa settimana o l'inizio della prossima. Però anche all'interno del CAR, che è appunto il raggruppamento principale, si iniziano a registrare posizioni forse non proprio così allineate. La fondazione Banca del Monte di Lombardia, che ha quasi il 5% del capitale di Ubi, ha iniziato a dire che comunque valuterà l'offerta, ha soldato un advisor sui generali per valutare la congruità dell'offerta e lo deciderà in base a questo. Naturalmente le fondazioni che non investono soldi propri ma i soldi del territorio devono guardare innanzitutto al ritorno potenziale di quell'investimento, anche in ottica di dividendi con cui fare poi le future erogazioni, e quindi devono valutare bene se inserirsi in una battaglia di questo tipo. E anche da questo punto di vista c'è questo ragionamento da parte della fondazione. C'è poi il caso di Cattolica, che ha tenuto banco nelle ultime settimane. Anche Cattolica è nel CAR, circa l'1% di Ubi, e naturalmente molti hanno speculato sul fatto che con l'ingresso di Generali in Cattolica, il primo azionista di Generali e Mediobanca, che è advisor di Intesa, forse la posizione di Cattolica potrebbe cambiare un po' più verso Intesa. Esattamente. Quindi sì, diciamo che questo schieramento vede alcuni movimenti. Allora c'è tempo, per mia esperienza, anche se un'operazione del genere, a mia memoria, Paolo, così ostile non l'avevo mai vista nel mondo bancario, che di solito era abituato a operazioni tra virgolette più concordate. Però c'è tempo appunto per vedere o un maggiore allineamento o un maggiore disallineamento delle posizioni, quindi o che si compattino appunto i patti storici, oppure che invece ognuno vada per conto suo, anche perché appunto l'operazione si concluderà il 28 luglio. A chi mi chiede i rapporti di forza, beh, lì c'è poco da discutere. Se prendiamo la capitalizzazione, insomma, Intesa è sui 30 miliardi di euro, UbiBank è sui 3 miliardi e mezzo, quindi siamo quasi a 10 volte le dimensioni di UbiBank. Grazie intanto a Paolo Paronetto. Noi adesso andiamo sul traffico e poi, visto che oggi è stata presentata chiaramente in maniera digitale, online, scusatemi, non con presenza fisica, l'appuntamento annuale del Forum della Pubblica Amministrazione, che si chiama Resilienza Digitale, Forum PA 2020, ospite il Ministro dell'Economia Gualtieri, il Ministro dell'Autonomia Francesco Boccia e quello dei Trasporti Paola De Micheli. È stata anche l'occasione per capire appunto la pubblica amministrazione come ha reagito di fronte al lockdown forzato del Covid e soprattutto con che strumenti ha reagito, anche perché io ammetto la mia ignoranza, non ho ancora capito quanto sia la percentuale di lavoratori della pubblica amministrazione, che vale a tutti i livelli, comunale, regionale e statale, in grado di lavorare, diciamo, sostanzialmente nello stesso modo da casa, cioè di accedere ai sistemi, al database, a tutti gli archivi da casa. No, non è polemica, veramente non l'ho capito. Ho visto che il ministro Dadone oggi ha detto nessuna percentuale rigida sullo smart working, ma tra qui e fine anno per il 50% dei lavoratori che svolgono attività eseguibili in modalità agile lo vorremmo mantenere, e da gennaio al 60% con il piano organizzativo del lavoro agile. Ne parliamo dopo il traffico. Se la sportività che cerchi in un'auto non è solo parcheggiare sul marciapiede, se la tranquillità del divano è l'ultima cosa a cui pensi quando sali a bordo, se cerchi sempre qualcosa che non si confonda con gli altri, per te è arrivata nuova Seat Leon, sportiva, connessa, ibrida. Oggi con un nuovo design e l'esclusivo Seat Light Concept. Fari full LED, illuminazione interna a LED intelligente e personalizzabile e LED posteriore cost to cost. Nuova Seat Leon, disegnata dalla luce. Tua da 19.500 euro. Scoprila su seatitalia.it. Focus Economia. Mantenere il lavoro agile, non in maniera ordinaria come è stata in questa fase emergenziale per il maggior numero di dipendenti possibili, ma di mantenerlo tra qui e fine anno per il 50% dei lavoratori che svolgono attività che si prestano ad essere svolte in questa modalità, quindi in modalità agile, e da gennaio che si arrivi al 60%, con l'onere però di predisporre un piano organizzativo del lavoro agile, il cosiddetto POLA. Questo proprio per riuscire a dare flessibilità a uno strumento che richiede una flessibilità e un'adattabilità a tutti i tipi di pubbliche amministrazioni. Non possiamo dire semplicemente diamo una percentuale che è il 10 o 20% per tutte, perché bisogna riuscire a calarla sia sulla singola piccola realtà che sulla grande amministrazione, e dipende, come dicevo molto prima, anche dal sistema di digitalizzazione che una pubblica amministrazione ha a cospetto di un'altra. Per cui abbiamo voluto creare questo strumento flessibile del piano, proprio per riuscire anche a responsabilizzare il dirigente e a mettere in capo al dirigente questo onere di dover individuare le attività che si possono svolgere da remoto, all'interno di quelle destinarne poi a regime un 60% dei lavoratori in modalità da remoto. Allora, così il ministro Fabiana Dadone, ministro a pubblica amministrazione. Carlo Mocchi Sismondi, presidente del Forum della Pubblica Amministrazione, buonasera. Mi sente Sismondi? E non lo sentiamo. Questo a proposito di smart working e di lavoro a distanza. Allora, io la domanda che vorrei fare a Sismondi, se riesco, mi sente adesso? Sismondi? No, abbiamo... No, perché questo è un tema che purtroppo affrontiamo sempre. Quando tutti parlano di smart working, immagino una cosa che è uguale, stare a casa, stare qui. Ecco, questo è il tipico esempio quando cerchi qualcuno al telefono. Però la Dadone ha anche annunciato che i concorsi cambiano, si cercherà di inserire anche prove logico-deduttive e di competenze trasversali. E poi, sempre nel corso del forum, è emerso come solo dal 2018 oggi siano andati in pensione 300.000 dipendenti pubblici a fronte di circa 112.000 nuove assunzioni e 1.700 stabilizzazioni. A fronte di 3.200.000 impiegati pubblici, i pensionati sono già 3 milioni. Tra l'altro c'è uno su sei dei dipendenti pubblici che ha più di 60 anni. Faccio notare, lo diciamo già altre volte, che dal punto di vista del numero di dipendenti pubblici, poi sull'efficienza e la produttività, un altro discorso, ci sono 3.200.000 appunto per impiegati pubblici in Italia. Noi abbiamo un livello molto più basso rispetto a quello francese, sono il 60% in meno di quelli francesi, il 65% in meno di quelli inglesi e il 70% di quelli tedeschi. Questo lo dico perché spesso si dice troppi dipendenti pubblici. No, non è così. Anche la spesa in percentuale al PIL della pubblica amministrazione italiana è in linea ed è più bassa di quella di altri paesi. Poi, altra cosa è l'efficienza della pubblica amministrazione, l'età, la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Ecco perché quando leggiamo che il 17% del totale ha maturato più di 62, ha compiuto già i 62 anni di età, con tutto rispetto, non è che la digitalizzazione avvenga solo per chi ha una certa età, anzi, però insomma è chiaro che forse a 60 anni hai meno disponibilità e anche meno così. Vedi già la fine del tuo percorso professionale, anche meno capacità quasi inerziale di aggiornarti. Per quello che riguarda giustamente l'ho chiamato lavoro agile, perché lo smart working tecnicamente è un'altra cosa, la Dadone. Allora, per gran parte dei dipendenti pubblici è stata un'esperienza positiva che ha portato in qualche caso anche un aumento di produttività. Ora, l'esperienza positiva può essere dovuta a molti elementi, a me interessa l'aumento o il mantenimento della produttività. Comunque, nel sondaggio presentato, per 7 lavoratori su 10 è stata assicurata totale continuità al lavoro, per il 41% l'efficacia è persino migliorata e per il 61% la nuova cultura di flessibilità e cooperazione prevarrà anche finita l'emergenza. Poi ci sono dei vantaggi, e di questo avrei voluto parlare, ma adesso basta, con Carlo Mocchi Sismondi, perché al di là dei vantaggi, perché fanno riduzione di sprechi e di emissioni anche di CO2, poi c'è tutto il tema, che però non frega niente a nessuno, vedo nel dibattito nazionale, di che cosa facciamo delle aree urbane, laddove si concentrano i lavoratori, non solo pubblici, anche privati, attualmente in smart working. E ripeto quello che dissi già giovedì scorso, va benissimo pensare a un nuovo modello di sviluppo, anche nel modello diciamo di lavoro, in questo caso di organizzazione del lavoro, anche nella pubblica amministrazione, però non lo puoi fare in 3 mesi per colpa di un virus, quando hai fatto investimenti in questi anni sia nelle infrastrutture che nell'edilizia per creare nuove zone, riqualificare intere zone urbane delle città italiane, soprattutto quelle più grandi, e lì allocare uffici dirigenziali, uffici commerciali, uffici amministrativi, uffici della pubblica amministrazione, perché stai modificando chiaramente il tessuto produttivo di quell'area. Comunque, ne avrei voluto parlare con Mocchi Sismondi, lo rifaremo, vediamo, prossimo anno, quando ci degnerà di nota. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.